Se sei un'impresa o un libero professionista, hai bisogno della PEC per attivare il tuo domicilio digitale, dove riceverai tutte le comunicazioni della pubblica amministrazione. Scegli la PEC preferita dagli italiani. Attivala facilmente su aruba.it. Linee d'ombra di Matteo Caccia. Ho sempre pensato di non essere una persona coraggiosa. Fino a 20 anni non mi era mai capitato nulla. Quella è stata la mia prima volta e neanche io me l'aspettavo. Quando visitai Salvatore capii che tutti noi, nel profondo, abbiamo nascosto un po' di coraggio che nelle occasioni più incredibili tiriamo fuori. Storie di coraggio e di star del cinema in una puntata che si intitola Sotto le armi. Noi gridiamo in cuore, viva e viva Orazzi, sì! Topoli, Topoli, viva Topoli! Chi fa sempre divertire i grandi edifici. I miei pensieri vanno di nuovo ai capezzoli eretti, alle eiaculazioni notturne, ai sogni bagnati di Mary Jane Ficarotta, alle fantasie dell'immensa scopata al ritorno a casa. Sono proprio contento di essere vivo. Tutto d'un pezzo, prossimo al congedo. Certo, vivo in un mondo di merda, questo sì, ma sono vivo e non ho più paura. Il mondo va a fuoco intorno a loro, intorno a queste figure di questi militari che marciano in questo campo di battaglia ormai abbandonato e che sta letteralmente bruciando intorno a loro. C'è una grande nube di fumo, si intravedono giusto le silhouette di questi militari che cantano una canzone buffa e allegra come Topolin, Topolin, viva Topolin. E Matthew Modine, o in questo caso la voce del doppiatore di Matthew Modine, fa questo monologo finale. È la chiusura di Full Metal Jacket, la chiusura di uno dei film di guerra forse più belli di sempre. Insomma, parlo per me, è una questione di gusti personali, ma probabilmente tra i film di Kubrick e tra i film che raccontano l'insensatezza della guerra, la ricerca di un nemico che spesso e volentieri non c'è, non esiste, perché non lo vedi quasi mai il nemico in questo film, e quando lo vedi è un cecchino, quindi è nascosto, ed è una donna, ed è una giovanissima donna che sembra, appunto, sembrerebbe innocua. Ebbene, questo pezzo finale è secondo me uno dei più splendidi, dei più rabbrividenti, ti fa venire i brividi, ti fa venire davvero la pelle d'oca quando lui dice sono proprio contento di essere vivo, sono proprio contento di essere vivo, di essere prossimo al congedo, cioè me ne torno a casa e sono contento di essere qui e soprattutto non ho più paura. È un pezzo, insomma, è un pezzo che racconta benissimo il senso di quel film e in qualche modo anche la puntata che vi stiamo raccontando, che vi stiamo raccontando oggi. Si intitola Sotto le armi, la puntata di oggi l'abbiamo cominciata in questo modo, appunto, anche con questo pezzo di Full Metal Jacket per dare là alla puntata. Ci sono episodi che raccontano di vite da militari, vi ricordate quando si faceva il militare? C'è stato pensare adesso sembra incredibile, no? Che c'è stato un periodo in cui i giovani erano precettati per un anno della loro vita, prima per il maggior tempo, per un anno e 6 mesi, 5 mesi, forse 8, adesso non mi ricordo, mio padre me lo dice un sacco di volte ma non me lo ricordo, poi per 12 mesi, poi per 10 mesi e poi più per niente. Oggi ci sarebbero probabilmente ci sarebbero delle manifestazioni di gente che va in giro, il mio diritto, nessuno ha diritto di precettarmi, nessuno può farmi questo, senza, con la mascherina, tant'è. Io alla fine ho fatto il militare, o meglio ho fatto il servizio civile, però quei 10 mesi li ho dedicati a una causa che ricordo con grande affetto, con grande amore, la cooperativa Primavera di Cuggiono, dove aiutavo in qualche modo, a modo mio, i ragazzi disabili e non che lavoravano in quella cooperativa. Però senza dubbio il periodo sotto le armi è un periodo che viene ricordato, a meno che non sia successo qualcosa di molto grave, di molto traumatico, con un certo affetto dagli uomini, dai 60-70 anni di oggi e anche dai protagonisti delle storie che vi racconteremo, perché Oltre alla primissima storia, quella del nostro ascoltatore, quella di Enrico, che ci racconta di un periodo difficile in realtà, vissuto sotto le armi, ma in un momento solo, con un gesto di coraggio, tutto quanto si ribalta, vi racconteremo anche la storia di un uomo molto famoso che ha raggiunto ormai un livello di fame, di successo altissimo, si chiama Adam Driver, uno dei più importanti attori hollywoodiani presenti, che è stato un Marines, che è stato un giovane Marines, anche se quando si è trattato di partire non è riuscito a farlo, e scopriremo il perché. E poi chiuderemo con la nostra storia seriale, la storia di Antonio Cocco, che sotto le armi ci è andato quasi per sbaglio, e quando ci è andato non è più riuscito ad uscirne. È una storia che vi stiamo raccontando grazie a Mauro Pescio, grazie alle lettere che Antonio scriveva a casa, una volta là, una volta nel campo di addestramento prima della legione straniera e poi una volta trovatosi in Indocina. Ma andiamo per un passo alla volta e cominciamo subito con la storia di Enrico. Benvenuti a Linea d'Ombra. Il giorno in cui ho scoperto di essere un ragazzo coraggioso l'ho datato 1 giugno 1989. Ma questa storia parte un po' prima. Mi chiamo Enrico, vivo a San Benedetto del Tronto e nel 1988, a novembre, dopo la scuola alberghiera, mi arriva la cartolina militare. Mi sarei dovuto presentare alla Spezia e iniziare questa avventura dopo 20 giorni di car, addestramento, giuramento in pompa magna in un pomeriggio freddissimo di metà dicembre, ci radunano nel cinema del casermone per la destinazione. Al mio nome destinano Arsenale Militare di La Spezia, imbarcato su un naviglio militare. Non spiegano altro alle mie domande incalzanti, nessuno mi risponde. Faccio le vacanze di Natale e il 1 di gennaio mi presento in Arsenale. Non ero mai stato su una nave, su un naviglio, non avevo mai avuto esperienze nautiche, ma comunque è stata sempre comunque un'esperienza interessante e bella nonostante tutte le disavventure che ho patito durante il servizio di leva. Io sono sempre stato una persona mite, appassionato di cucina e di letteratura, e quella destinazione mi turbava un po'. La mattina seguente, dopo una nottata in treno, mi presento dopo aver alloggiato in un camerone al secondo piano di un casermone, scendo sulla banchina del porto, dove mi accoglie il comandante del mio naviglio, che in realtà era un rimorchiatore portuale alquanto datato. I primi giorni sono stati molto duri. Il nostro lavoro era trasportare cisterne e bettoline, piccole navi, all'interno del porto militare. Il mio, quello di saltare, annodare cavi, azionare verricelli tutto il giorno in mezzo a grasso e a salsedine. Non leggo molto con i componenti dell'equipaggio. Il mio aspetto grassoccio, dal linguaggio forbito e il costante passare il tempo libero sui libri, irrita un po' tutti. Nelle settimane iniziano a uscire i primi pseudonimi. Il chiattone, il professore, la femminuccia. Nel 1989 il nonnismo fisico, almeno in marina, non esisteva più, ma l'isolamento c'era e con il passare delle settimane mi resi conto che ero veramente solo. Il comandante era una brava persona, aveva capito il mio malessere, ma francamente non poteva fare niente. I mesi passavano e le cose non miglioravano, anzi, ormai ero diventato un corpo estraneo in quel mondo virile dove io, con il mio aspetto, ero inadatto. Spesso mi capitava di fare sbagli mettendo a rischio le manovre del rimorchiatore, peggiorando la situazione, che già non era affatto buona. Who wants to know? All that is gold is rusted. No one will know. Seasons cease to change. Tomorrow she's gone. somehow. Eravamo in 10, il comandante, un motorista e 8 militari di leva, 8 persone che mi detestavano. Il più feroce era Salvatore, un ragazzo piccolo di statura ma con una muscolatura bestiale. In quel periodo stavo leggendo Se questo è un uomo di Primo Levi. Assomigliava molto ad Elias nel racconto del campo. Spesso leggendo il libro facevo un parallelo dal libro a quel momento della mia vita. Nelle settimane che passavano cercavo sempre di evitare il più possibile la vita comune con i miei compagni e soprattutto evitavo i lavori più pericolosi durante i rimorchi. Ormai il comandante mi relegò alla radio a rispondere all'ufficio porto e qualche volta ero addetto al gancio. Posizionavo il cavo di rimorchio sul gancio e lo sganciavo a rimorchio finito, situazione che indispettì ancora di più gli altri componenti dell'equipaggio. Ormai contavo i mesi che mancavano al congedo, ma la strada era lunga, perché sarei dovuto arrivare a gennaio del 1990. Riuscii anche la sera a trovare un lavoretto in un ristorante di La Spezia e uscii completamente dalla vita di gruppo del casermone, dove dormivano gli equipaggi di tutti i navigli militari dell'arsenale di La Spezia. Fino a quando arrivò il 1° giugno, una giornata ventosa che ci impedì di uscire con il rimorchiatore. In tutta la mattina facemmo delle pulizie a bordo, a me misero a pulire il bagno come al solito. Nel pomeriggio però arrivò la chiamata dall'ufficio porto. Dovevamo recarci fuori dalla Darsena a recuperare il pontone galleggiante perché il mare si era ingrossato ed era pericoloso. Rimanemmo tutti perplessi, anche il comandante rimase sorpreso perché il rimorchio con quel mare era veramente pericoloso. Mollammo gli ormeggi. Dopo 10 minuti di navigazione uscimmo dalle acque relativamente quiete in mare aperto. Il rimorchiatore ondeggiava. Giunti a destinazione agganciammo con molte difficoltà la gru galleggiante e iniziammo il rimorchio. Il mare era veramente grosso, ondeggiavamo paurosamente. Il comandante ci fece mettere tutti a prua e ci attaccammo ai passamano del naviglio per non finire in mare. Dopo qualche minuto, un imprevisto. Un cavo del rimorchio finì sotto l'elica e iniziammo a rovesciarci. Salvatore andò a vedere con un bastone se poteva disincagliare il cavo. Di colpo però arrivò un'onda, il cavo gli serrò la gamba. Rimanemmo tutti impietriti. Il comandante cercò di fare qualche manovra, ma niente di fatto. Lì per lì non ho pensato nulla, tutti non sapevano che fare e io ho pensato sgancio i cavi e amen, che porrà succede? La gru è andata a finire in alto mare, però purtroppo l'unica cosa era quella. Non so che cosa mi spinse a saltare l'arco e andare al gancio a sganciare i cavi del rimorchio. Una manovra semplice che nessuno aveva avuto il coraggio di fare, io invece sì, mettendo a rischio veramente la mia vita. Andai a soccorrere subito Salvatore che perdeva sangue dalla gamba che era spezzata. Tutto l'equipaggio rimase scosso. Arrivò l'ambulanza. Quel tardo pomeriggio ci recammo tutti in ospedale a trovare Salvatore. Io andai da solo, più tardi degli altri, e tutti mi accolsero come uno di loro. Quando arrivai in corsia, il comandante mi abbracciò. E quando visitai Salvatore, capii che in tutti noi, nascosto nel profondo, abbiamo un po' di coraggio. Un coraggio che nelle occasioni più incredibili e inaspettate tiriamo fuori. Dopo quell'incidente ci fu un'inchiesta militare, ma a me non importava nulla perché ero diventato il 9° componente dell'equipaggio e lasciai il mio lavoro serale, trascorrendo il tempo libero nella sala relax a giocare a biliardino, a ping pong, a inventare avventure amorose mai avvenute. Anni dopo fui convocato dal tribunale di Genova come testimone per quell'incidente, dove il povero Salvatore subì una brutta frattura. Quando nella mia vita odierna di cinquantenne ho un po' di paura, ripenso sempre a quel giorno e vado avanti. You say the hill's too steep to climb. You say you'd like to see me try. Climb. La puntata di oggi si intitola Sotto le armi. Avete sentito anche perché, ci sarà anche una storia più tardi che racconta un'avventura di un personaggio famoso, di un attore hollywoodiano che è stato nei Marines. La storia di Ulderico, in realtà l'ho chiamato Enrico prima, ma mi spiegava che Enrico è una sorta di soprannome, il suo vero nome è Ulderico. È una storia che parla di coraggio e tra l'altro devo dire che abbiamo avuto qualche difficoltà a recuperarlo Ulderico, perché aveva un'email che non leggeva. Insomma, Anita troverebbe chiunque, anche se vi nascondete nel deserto dell'Afghanistan e dormite ogni notte in un letto diverso, lei vi scova, ed è riuscita a scovare Ulderico, e l'ha fatto anche grazie a Carlo Genta. Quindi io ringrazio l'ottimo Carlo di tutti i convocati, ovviamente conoscerete Carlo Genta, che Anita ha scoperto con amici su Facebook, e ha chiesto a Carlo: Carlo, potresti mandare un messaggio a questo ascoltatore per chiedergli di rispondere al telefono? Carlo l'ha fatto e Ulderico è qui con noi. Pronto, ciao Ulderico, buongiorno. Ciao Matteo, ciao a tutti. Quindi ti sei trovato un messaggio di Carlo Genta in privato che ti diceva: rispondi al telefono. Obbedire facendo, non me l'aspettavo. risposto subito. Senti Ulderico, so che insomma sei al lavoro, perché sei un cuoco, giusto? Sì, sono un cuoco in un presidio militare. Ah, ok, e quindi ti trovi in cucina in questo momento, immagino. Sì, sto lavorando. Va bene. Senti, allora andiamo diretti al punto, perché la storia che ci hai mandato è una storia molto bella che in realtà parla di diverse cose, non parla solo di coraggio, parla anche di integrazione, cioè c'è un pezzo di socialità in quello che ci racconti, perché ed è proprio qui, da qui che io partirei. Secondo te per quale motivo non è riuscito a integrarti così bene in questo gruppo di persone? Una serie di dinamiche, di cose, un po' anche per colpa mia, per pigrizia, per tutta una serie di circostanze, anche per uno stato d'animo che durante il servizio militare in genere, quando si è molto giovani, è difficile integrarsi, è difficile cercare di tirarsi fuori dalla solitudine, dalla lontananza, dalla famiglia. Senti, invece, venendo all'episodio, c'era un mare abbastanza forte, da quello che ci racconti. Sì, molto. E esattamente, tu mi racconti che cosa hai fatto di tecnicamente? Cioè, un cavo si era infilata nell'elica o stava infilandosi nell'elica? Il cavo stava sotto lo scafo, credo nell'elica. Okay. Il ragazzo era andato con un bastone lungo cercando di disincagliarlo. In quel momento è arrivata l'onda, lui stava scavalcando l'archetto e sto cavo gli ha preso la gamba e gliel'ha spezzata. E gliela serrava praticamente. Lì per lì, l'istinto, sono saltato anch'io nell'arco e ho sganciato i cavi, ho mollato il pontone in balia delle onde, però almeno il cavo gli ha mollato la presa. Certo. Lì per lì non è stata una cosa normale. Poi successivamente ho pensato che comunque è stata una cosa pericolosa per me, capito? Beh, e di fatto poi la gratitudine è stata anche evidente, no? Da parte di tutti e da parte di questo salvatore. Sì, tutti. Salvatore l'hai mai più sentito? Sei rimasto in contatto con lui? No. Ho provato a cercarlo su Facebook, ne ho ritrovati altri, però Salvatore no. Invece gli altri commilitoni vi risentite? Sì, il comandante ho ritrovato Facebook, i social servono anche a questo, a trovare i commilitoni e a trovare gli ascoltatori introvabili grazie a Carlo Genta. Questa poi è un'altra possibilità. Senti, l'ultima cosa Ulderico, poi ti lascio tornare al lavoro. Ti è mai capitato di tirare fuori in un'altra occasione quella forma di coraggio nascosto poi nella tua vita? A quel livello lì no, in forma minore sì, però ho sempre ripensato a quel momento che ho tirato fuori quell'atto di coraggio, cioè nel senso, quello secondo me è stato come uno spartiacque nella mia vita, cioè ho capito che comunque in fondo siamo tutti un po' coraggiosi nella vita, e perché non ci capita l'occasione, quando ci capita lo sappiamo manifestare un po' tutti, credo. Certo, assolutamente. Senti, in questo periodo complicato legato alla pandemia, insomma questi mesi passati, come l'hai vissuto tu per il tuo lavoro? È stato un problema? Hai continuato a lavorare? Io, il presidio militare è rimasto aperto, quindi ho lavorato. Ok, continuato. Invece di andare con i mezzi pubblici andavo in macchina, e proprio tornando in macchina che ascoltavo Linee d'Onda. quindi ci hai mandato la storia. Ulderico, ti ringrazio davvero tanto per la storia e per la chiacchierata. Ciao Matteo, ciao a tutti. Grazie ancora per tutto, in bocca al lupo. Ciao. A presto, ciao Ulderico. Ciao, ciao, ciao, ciao. Grazie mille Enrico per la storia che ci ha raccontato in questa puntata che si intitola Sotto le armi, in realtà a che fare con il coraggio. Questa storia è un pochettino a che fare con il coraggio anche la prossima, è la storia di un personaggio molto famoso, è una star del cinema hollywoodiano, perdonatemi, si chiama Adam Driver, è un attore che sicuramente avete visto in moltissimi film, non ultimo Guerre Stellari, e c'è una storia anche in quel caso che parla di coraggio e soprattutto parla di militare. Tra pochissimo, ora le borse in diretta e poi torniamo a raccontare sempre qui a Linee d'Ombra. Fineco, è tempo di investire con noi. Vi presenta Linee d'Ombra. In questa puntata che si intitola Sotto le armi vi vogliamo raccontare la storia di uno degli attori hollywoodiani del momento. Si chiama Adam Driver, appunto come dicevo prima forse non conoscete il nome ma l'avete visto in una miriade di film, da Storia di un matrimonio a fianco a Scarlett Johansson fino agli ultimi Guerre Stellari in cui interpreta il giovanissimo Darth Vader. Lui è un ragazzone molto alto, con i capelli nerissimi e la faccia lunga, ricorda vagamente Zlatan Ibrahimovic, e prima di essere un attore di successo è stato un militare. È stato nei Marines, e lo è stato in un periodo in cui essere un artista ed essere un militare non era così facile. E questa è la sua storia. State con noi. Quando il fosforo bianco tocca la pelle, può bruciare fino all'osso. Quando le particelle si infiammano, emettono un odore simile all'aglio e fondono tutto ciò che si trova sul loro cammino. Adam Driver, caporale dei Marine, primo battaglione, primo reggimento, compagnia d'armi 81esimo plotone, era consapevole di questi effetti quando ha guardato il cielo della California durante un'esercitazione, in un giorno del 2003, e ha visto una nuvola di fosforo bianco esplodere sopra la sua testa. L'unica cosa che doveva fare era correre. L'anno precedente, a 18 anni, Adam era entrato nel corpo dei Marines per sua scelta. Dopo il liceo aveva affittato una stanza sul retro della casa della sua famiglia a Mishawaka, nell'Indiana. Aveva tagliato erba per $4 l'ora. Aveva vaghe ambizioni di fare l'attore, aveva anche fatto un provino per la Juilliard School a Manhattan, perché sapeva che non controllavano i voti del diploma. Quando venne rifiutato, decise di andare a Los Angeles e cercare di sfondare nel cinema. Caricò la sua vecchia auto, piena delle sue cose, un minifrigo, il suo microonde e tutto ciò che possedeva, e disse addio alla sua ragazza. Fu un momento particolare, ricorda. L'ho salutata dicendole: non so quando ci rivedremo. Il nostro amore, forse, troverà un modo. E poi, addio. Hollywood, arrivo. La sua auto si ruppe appena fuori a Amarillo, in Texas, e Adam spese quasi tutti i soldi che aveva per ripararla. Una volta a Los Angeles, rimase in un ostello per due notti e pagò un agente immobiliare per aiutarlo a trovare un appartamento che si rivelò una vera e propria truffa. Per due giorni, ricorda, camminò su e giù per la spiaggia di Santa Monica, facendo calcoli, pensando che i $200 che gli erano rimasti in tasca erano giusto sufficienti per la benzina. E così fece. Tornò a casa, a Mishawaka, in Indiana, dove ottenne nuovamente il lavoro come tagliaerba. Era andato via una settimana prima. Era tutto molto imbarazzante, racconta. Mi sentivo uno sfigato. Dopo l'11 settembre si ritrovò pieno di desiderio di vendetta, anche se non era sicuro contro chi o contro cosa. Il mio pensiero, racconta, era questo: siamo stati attaccati, voglio combattere per il mio paese contro chiunque sia. Today our fellow citizens, our way of life, our very freedom came under attack in a series of deliberate and deadly terrorist acts. Il suo patrigno, un ministro Battista, gli aveva dato un opuscolo per l'arruolamento nei Marines che aveva gettato nella spazzatura. Poi però ci aveva ripensato. Aveva voglia di una sfida fisica e la vita nei Marines era molto dura. Mi hanno convinto, dice, con la loro storia del non ti diamo nessun bonus per arruolarti con noi. Siamo il ramo più duro delle forze armate. Non otterrai tutta quella comodità che la Marina o l'esercito ti danno, ti dicevano. Sarà dura. La sua decisione di arruolarsi fu così improvvisa che un reclutatore gli chiese se stesse scappando dalla legge. Venne mandato in un centro di Indianapolis per un esame fisico, poi al centro di reclutamento del corpo dei Marines a San Diego per un campo di addestramento. La prima notte le reclute si misero in fila per farsi rasare la testa. Adam era alto 1,90 m, con gli occhi strabici, il naso aquilino e le orecchie a sventola. Anche un'altra recluta, Martinez, aveva grandi orecchie, e lui e Adam vennero soprannominati Orecchie 1 e Orecchie 2. L'addestramento di base era estenuante come nei film. Dopo 2 mesi e mezzo fu mandato a Camp Pendleton, nel sud della California, dove si addestrò al mortaio. Durante una simulazione di battaglia, i responsabili dei mortai dovevano guidare delle jeep in una valle e sparare colpi di mortaio su un bersaglio lontano, da colpire con un'esplosione al fosforo bianco. A causa di un errore, il fosforo esplose non sopra il bersaglio, ma sopra la testa degli uomini. Fortunatamente il vento soffiava forte, così i pennacchi tossici si agitarono in aria prima di cadere a terra e i Marines ebbero tempo di mettersi in salvo. Più tardi, mentre Adam si riprendeva in caserma, pensò alle due cose che voleva davvero fare nella vita e si promise di farle. Una era fumare sigarette, l'altra era fare l'attore. Did you stand there all alone? Oh, I cannot explain what's going down. I can see you standing next to me, in and out, somewhere else right now. You sigh, look away. I can see it clear as day. Close your eyes, so afraid. Hide behind that baby face. Do do do do do do. You can drive. Time at all, I followed you into the hall. Dopo più di 2 anni di addestramento, Driver si stava preparando a partire per l'Iraq. All'epoca non pensava alla politica legata alla guerra in Iraq, ma solo alla lealtà verso i suoi compagni. Una mattina, lui e il suo amico Garcia andarono a fare un giro in mountain bike. Sulla via del ritorno, Adam urtò un fosso. Il manubrio gli sbatté contro il petto e lui si lussò lo sterno. Il sergente gli disse subito che quella ferita gli avrebbe impedito di schierarlo in battaglia. Tentando di dimostrare invece di potercela fare, Adam si riempì di antidolorifico e si allenò in palestra, ma peggiorò il danno. Fu congedato con onore, mentre il suo ex plotone venne spedito nella punta sudorientale dell'Iraq per condurre missioni di sicurezza sul confine iraniano. Era l'inizio della guerra e l'unità ritornò sana e salva, ma Adam era devastato. Se ne erano andati, racconta, e avevano fatto la cosa per cui ci eravamo addestrati insieme. Mi sentivo una merda. Il comandante del suo plotone lo aveva sempre trovato più riflessivo degli altri. Dice che la vita dopo i Marines può essere molto dura. Si passa dall'essere in famiglia all'essere soli, senza identità e senza missione. E se sai che sta per succedere va bene, ma se non lo sai, come è accaduto per Adam, può essere piuttosto spaventoso. Umiliato, Adam Driver tornò in Indiana, a bordo di una Ford che aveva comprato da un ufficiale. Si iscrisse all'università di Indianapolis. Fece domanda per diventare poliziotto, ma venne rifiutato perché aveva meno di 21 anni. Così ottenne un lavoro come guardia giurata. Si sentiva alla deriva, la sua missione non era compiuta. Poi, ricordando il suo voto di essere un attore professionista, tornò a Chicago per riprovare l'audizione alla Juilliard School. And then suddenly I was a civilian again. I knew I wanted to give acting another shot because, again, this is me. I thought all civilian problems. Improvvisamente ero di nuovo un civile. Sapevo di volere tentare di nuovo di recitare, perché di nuovo, questo sono io. Pensavo i problemi dei civili sono niente in confronto a quelli dei militari. Di cosa ci possiamo lamentare? Fa caldo? Qualcuno dovrebbe accendere l'aria condizionata? Oppure la coda per il caffè è troppo lunga? Io ero un Marine. Sapevo come sopravvivere. Sarei andato a New York a fare l'attore. Se le cose non avessero funzionato, avrei dormito a Central Park e rovistato nei cassonetti di Panera Bread. Un insegnante della Juilliard School lo ricorda così. Adam entrò. Vidi questo giovanotto molto interessante, era grande, alto, allampanato, con i capelli che gli cadevano parzialmente sul viso. Eseguì le battute di apertura di Riccardo III, poi un monologo contemporaneo che aveva trovato in una libreria, e per la selezione musicale cantò Happy Birthday to You. La sua recitazione non era raffinata, ma per l'insegnante irradiava qualcosa di genuino. Qualche giorno dopo, Adam stava sorvegliando un magazzino di distribuzione d'abbigliamento quando ricevette la chiamata della scuola e gli diceva che era stato accettato. Ho corso su e giù per il magazzino saltando, ha detto. Ero euforico. Nell'estate del 2005 si trasferì in una stanza sgabuzzino a casa di uno zio a Chicago. La scuola di teatro fu uno shock. Era passato dallo sparare mortai a fingere di essere un pinguino negli esercizi di improvvisazione in classe. Era infastidito dalla vita civile. Prendeva in giro i compagni di classe che indossavano camicie slacciate o arrivavano in ritardo a lezione. Una volta urlò così forte contro uno studente che aveva usato il suo tappetino da yoga da ridurre il ragazzo in lacrime. Si è diplomato a scuola nel 2009. Driver aveva considerato l'ipotesi di diventare pompiere se la recitazione non avesse avuto successo, ma la sua carriera è decollata quasi subito. Nel 2010 è apparso in un revival di Broadway e in un film della HBO con Al Pacino. L'anno successivo ha interpretato un benzinaio in J. Edgar, diretto da Clint Eastwood, e il figlio di Frank Langella in uno spettacolo teatrale. A distanza di pochi anni, dopo essere apparso in una serie TV di successo che si intitolava Girls, Driver, in soli 6 anni, ha lavorato con una sorprendente rosa di registi: Spike Lee, Martin Scorsese, Jim Jarmusch, Steven Soderbergh, i fratelli Coen. Ma il suo periodo nel corpo dei Marines è stato fondativo per lui e oggi ha dato vita a un'organizzazione senza scopo di lucro, fondata da lui. Si chiama Arts in the Armed Forces, che promuove l'apprezzamento dell'arte tra le truppe militari di stanza in tutto il mondo. Oh, well, everybody's heard about the bird. Bird, the bird's a winner. Well, the bird. Bird is a winner. Well, the bird. Well, the bird is a winner. Well, the bird. The bird's a winner. Well, the bird. Well, the bird is a winner. Well, the bird. The bird's a winner. Well, the bird. The bird's a winner. Well, the bird. Well, the bird is a winner. Well, the bird. The bird's a winner. Well, don't you know about the bird? Well, everybody knows that the bird is a winner. Well, the bird. Everybody's heard about the bird. Insomma, se non avete capito chi è Adam Driver, fatela al volo. Scritto Adam Driver, andate su Google e sicuramente avete visto questa faccia assurda, splendida, bellissima per molti, semplicemente bizzarra per molti altri. Io trovo che abbia un grandissimo fascino Adam Driver. L'abbiamo letta questa storia sul New Yorker, si intitolava Adam Driver, The Original Man. Ora ascoltiamo Le strade in diretta e poi torniamo a raccontare la nostra storia seriale, la storia di Antonio Cocco. Linee d'ombra. Vi stiamo raccontando la storia di Antonio Cocco. Antonio Cocco era un giovanissimo uomo che decide di scappare dalla sua famiglia di Venezia perché per vergogna, per imbarazzo, perché ha preso un brutto voto a scuola. Finisce in Francia, è clandestino e si infila in quel pozzo scuro che era all'epoca e probabilmente ancora adesso, che era Legione Straniera. È una storia a puntate che vi stiamo raccontando grazie a Mauro Pescio, che l'ha raccolta insieme ai familiari e agli amici di Antonio Cocco, ai familiari della famiglia Cocco. Era una famiglia molto nutrita, erano 10 fratelli all'epoca quando tutto questo è successo, parliamo degli anni 50. Le storie che racconta Mauro le raccoglie personalmente, sentite anche la sua voce in quei pezzi di audio che vi raccontiamo. Ebbene, a questo punto noi siamo già con Antonio all'interno dell'addestramento in Algeria, dopo essere passato dalla Francia, è stato spedito in Algeria e sta facendo questo addestramento durissimo. Questo episodio, che Mauro ha intitolato Gli amici sono importantissimi, parla proprio di quello, parla di come un piccolo legame in un luogo come quello possa fare la differenza tra vivere e sopravvivere. Vi ricordo che quello che sentite, le parole che sentite sono le parole scritte dallo stesso Antonio Cocco nelle lettere che mandava a casa, in gran parte al padre e in questo caso invece a un amico, si chiama Giorgio Levorato, e gli scrive perché si ricorda l'indirizzo suo e quindi scrive all'amico e gli chiede le cose che si chiedono tra ragazzi: come va la compagnia, come vanno le uscite, come va la scuola. E a un certo punto c'è anche un ricordo per quel professore di italiano che secondo lui è la causa di tutto, quello che gli ha dato quel brutto voto che l'ha fatto decidere di mollare l'Italia, mollare Venezia e andare in Francia, e dopo pochissimo si ritrova nella Legione Straniera. Giorgio Levorato, sì, era un ragazzo amico di famiglia, insomma, ma dopo, sai, sono cose dei miei fratelli, io sì, l'ho conosciuto, ma no. Non sapresti che rapporto aveva lui? No, non mi interessava niente proprio. Sei il primo a cui scrivo. Se ti dicessi che ciò dipende dalla grande amicizia che mi unisce a te, sarei un po' troppo esagerato, ma sei uno dei pochi di cui conosca l'indirizzo. Chissà cosa avrai pensato o mormorato, o meglio avrete pensato e mormorato su di me da quando ho fatto questa pazzia. Vedi che riconosco i miei sbagli. Giorgio Levorato era un suo amico e, come dice Antonio nella lettera, non è che gli avesse scritto perché erano molto amici, ma perché si ricordava l'indirizzo. Era un suo amico e uno della compagnia, tant'è vero che nella lettera poi lui dice: salutami tua cugina, salutami la Bruna e cose, poi fa un po' di nomi tra gli altri, no? E poi gli dice: ti pregherei di darmi l'indirizzo di Rienzo De Angelis, che era invece il compagno di banco di Antonio, quello con cui Antonio studiava anche. Ogni tanto penso un po' a tutti voi ragazzi e ragazze della compagnia, vi rivedo tutti e un senso di nostalgia mi prende. Nostalgia dei balli, delle mattate fatte con te e con Rienzo. Rienzo De Angelis ha riuscito a contattare mia madre, la sorella di Antonio, Anna, perché è l'unica che è rimasta nell'elenco del telefono, immagino, di Venezia, e le ha telefonato. Mia madre mi ha passato il numero, l'ho cercato, e sì, poi sono andato a trovarlo, gli ho portato il libro e sono andato a trovarlo. È una persona lucida, però vive ormai in condizioni di salute molto precarie, vive chiuso in casa. L'incontro è stato toccante, anche se lui aveva una grande esigenza di parlare, di raccontare, di trovare, eccetera. Però mi ha fatto un racconto incredibile. dell'ultimo giorno di lezione di Tony, eccetera. E delle nostre tournée quotidiane di Venezia, dell'Italia. Quando ero a casa dicevo che mai avrei sentito nostalgia di casa e degli amici, eppure la cosa di cui sento la mancanza, di più. Sono curioso di sapere come stanno le cose a Venezia, come è andato il famoso ballo in campagna, come va la compagnia, i risultati di tutti i miei amici di scuola, naturalmente in primo luogo Rienzo, tua cugina, Bruna, Iris, Rossana. Quando mi risponderai, se mi risponderai, cerca di accludere l'indirizzo di Rienzo perché voglio scrivere a quel brutto disgraziato e lavativo. Chissà come se la sarà cavata, alle call. Io spero bene, ma comunque sarà sempre più fortunato di me. Molto probabilmente però avrà messo la testa a posto da quando sono venuto via da Venezia e se la sarà cavata con due o una materia. Quando penso che ho fatto tutto questo per quel disgraziato, fesso, idiota, cretino, delinquente, vigliacco, stronzo e porco di professore di italiano, mi verrebbe da strozzarlo. Se non fosse per lui, ora me ne starei a casa, beato e tranquillo, e chissà quanti bei bagni e ballate avrei fatto. L'altro giorno abbiamo fatto i tiri con il fucile col bersaglio, prima di sparare ho raffigurato il cartone come il professore d'italiano che vedessi al centro, e l'ho preso. Prima che mi dimentichi, saluta tutte le ragazze, Maria, Bruna, Anna, Milena, Silvana, e il resto, compresi naturalmente i ragazzi. Se puoi farti dare l'indirizzo di Bianca tramite Rienzo mi faresti un grande favore. In compenso però, a tutte queste privazioni e alla vita militare rigidissima che si deve condurre, ho la soddisfazione di visitare il mondo. Francia, Africa, poi andrò in Arabia, in India, in Indocina. Saluti. Grazie alla famiglia Cocco che ci ha raccontato questa storia e continua a raccontarcela, grazie a Mauro Pescio che la prende e la mette insieme per noi giorno dopo giorno. Grazie anche ad Anita Panizza, grazie a Paolo Corleoni e a Luca Micheli che fanno questo programma. Vi ricordo che potete mandarci le vostre storie scritte, delle vostre linee d'ombra che avete varcato a lineadombra@radio24.it. Se invece c'è una linea d'ombra che è ancora calda, non è passata nel tempo, non è trascorso del tempo tra quella storia e ora, ma la state vivendo adesso, volete mandarci un messaggio audio WhatsApp, il numero a cui potete mandarlo è il 331 57 55 721, 331 57 55 721. Una storia semplice che racconti qual è la linea d'ombra che state vivendo in questo momento, qual è il passaggio, il varco che state attraversando, e noi la prendiamo, la musichiamo un po' e ci facciamo un altro modo per raccontare le nostre e le vostre storie. La linea GR, noi torniamo domani puntualissimi per raccontare storie, che rimane il modo migliore per conoscere il mondo. Viva! We'll be right back.